corteo, corteo, corteo, corteo. Non si è che sono teo, che continuano a avere delle tasse. Mi date che sono le vostre tematiche, le rivendicazioni di tutti i giorni. Fate che la calibro, fate un pezzo di noi chiaramente, ma non ci scordiamo della violenza. La violenza sulle donne, dei femminicidi, della libertà di scelta sui nostri corpi, della legge 194, il fatto che nel Lazio ancora non è possibile accedere alla pillola RU486 e bisogna ricorrere per forza all'aborto chirurgico. E ricordiamo l'innumerevole numero di obiettori di coscienza, il 91%! In Italia non è possibile quasi più abortire, è una questione di soldi e non di etica, si chiamano obiettori e il pubblico non fanno aborti, ma nel privato, negli studi privati fanno i soldi. Questo significa che l'aborto diventa qualcosa di accessibile solo chi ha i soldi, solo chi è ricco.